a minute. About to drop a dime on the fam, nothing less than stellar. When I spit this fire from the cellar, rock bottom, 30 south, the microphone grip, a prolific lyricist got the gift to keep on spitting this. Who wanna test me? You know I hit him with the Mr. Clutch and crunch time like Nestle. I'll be the everlasting truth, 181 proof in the pudding when I step into the booth. Poof, like magic. Yo, you silly rabbits, it's the dramatic like classic when I'm rapping. Plenty of action, addition, subtraction, turn these whack rappers into fractions. Simple mathematics, fanatic, addicted to my. Got your girl doing backflips. Let's take it back, kid, on some old school raps. My boombox blasting in my lap, yes, man. I will stay for today, but tomorrow I'll be telling baby, I'll be making my way. I can't be tethered or locked down, cause all that I got now ain't nothing at the end of the day. And so I will stay for today, but tomorrow I'll be telling baby, I'll be making my way. I can't be tethered or locked down, cause all that I got now, I'll be making my way. I am the truth, meaning I am proof of who I am. Who will skip your applause in pursuit of time hands? Make them clap, make them snap, make them point my direction. Sorry if I gotta move in and out of your section. I just wanted to bless one before I left some. Or do it to death, or come and give it your best run. A rendition, I won't just stop your style. I end missions, I drop your man, listen. Going at it hard while gripping my gonads. A nomad, hoping my plans won't go bad with this music. Focus, drop the jewel and I'ma use it. Even in the mansion, there is room for improvement. So I'ma keep moving until I drop the beam. A cop dreams of being overseas and rock scenes. Put on your red light, Roxanne, it's not me. The cage bird got away and cop a ticket from me. Okay, so I will stay for today, but tomorrow I'll be telling baby, I'll be making my way. I can't be tethered or locked down, cause all that I got now ain't nothing at the end of the day. And so I will stay for today, but tomorrow I'll be telling baby, I'll be making my way. I can't be tethered or locked down, cause all that I got now ain't nothing at the end of the day. I'll be making my way. It's the SFP. Do it most definitely. So basically, you're facing me. We break shackles and we're setting you free. Who letting it be? Society never pressuring me. But it's less than three, so hit them with the. I do my own thing. My main with beats and the speakers that bang. Put the change in my celebrity frame. So praise the Lord, I've never been scored. So Charlie, hustle now. Put them on my muscle now. Back with it when I'm spitting the flow. Got the other brothers hitting the flow. So yes, yes, to the beat, to the rhyme, to the beat. I speak whenever the shine blind you with a yes, yes, you're. And you don't stop to the beat, you're in the place to be. Rock, keep it moving. Yes, yes, you're. And you don't stop to the beat, you're. Strange Fruit Project. Them phases on the track. Can't wait for the healing, y'all. E bentornati e ben ritornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Era un po' di settimane che saltavo, ma oggi gliel'ho fatta, anche se al termine di una lunga passeggiata. C'era infatti una passeggiatina di un gruppo sparpagliato e escursionistico che da quel del Next Emerson è partito e è andato attraverso una qualche passaggio precollinare presso il cippo di Radio Cora. Avete forse intuito, se avete ascoltato la radio in questo pomeriggio, dal momento che c'è stata una lunga diretta da quei prati, da quei luoghi che si trovano nella zona di Cercina. E nulla, quindi al ritorno, siccome siamo stati molto precisi per non beccarsi la pioggia delle 5, sono riuscito a mettermi ai microfoni della Wombat Regia e rifare la trasmissione dopo circa 2 settimane di stop. Nulla, niente, proprio niente, proprio non riuscivo a raccattarmela. E non ho tantissimi argomenti per oggi, però alcune ci tenevo a fare la trasmissione questo sabato. Perché? Perché la prossima settimana in realtà accadono due cose. Una, riapre il giardinetto estivo del Next Emerson, e la seconda e che riapre con la presentazione della fanzine dell'ECLAB, cioè di IFDU, di cui io anche farei parte, ecco. E questa fanzine è stata partorita nei mesi del lockdown, quindi si chiamerà, non è un quindi in realtà perché non c'è una consecutio tra le due cose, però la fanzine si chiama Ciusi, Ciusi perché? Perché... non so se vi ricordate la Fornero, è un personaggio passato, non è detto che uno se la ricordi per forza, però parlando ai giovani che dovevano scegliere un mestiere, ha detto: i giovani non dovrebbero essere troppo chiusi nella scelta del mestiere, cioè non dovrebbero essere troppo schizzinosi. Era molto bello questo rimpallo sui giovani, sul fatto che non è che non c'è un cazzo da fare, che il mondo del lavoro è un po' una merda, no, è che siamo noi che siamo schizzinosi e quindi... Vabbè. E quindi noi per questo abbiamo deciso di chiamare la fanzine Ciusi, in memoria della Fornero. Non è morta, è viva. Però vabbè. E quindi tendenzialmente questa fanzine è una sorta di figlia del lockdown e verrà appunto presentata in una qualche forma, ancora non ha ancora visto veramente la luce nella sua forma più concreta, neanche online. Dobbiamo ancora proprio finire di impaginare tutto, credo, e quindi però ci troverete diversi articoletti, diverse cosine che spaziano un po' da che ne so, divagazioni su cose tipo il metodo scientifico, la matematica, la statistica, a che ne so, articoli che parlano di musica, di trascrizione di musica rinascimentale e barocca, robe strambe, e poi che ne so, una lunga disquisizione su la fruizione di alcuni particolari, anzi la funzione di alcuni particolari canali di YouTube similari per la spinta della musica alternativa, cioè un grosso trip sugli opinion leader, sostanzialmente su chi crea opinion leader nel campo della musica alternativa e che tipo di musica è, perché l'ascolti perché magari l'hai vista su un canale, cioè un lungo trip di questo tipo, è interessante. Alcune recensioni di libri anche, sì, non ci sono, ci saranno anche quelle, e poi ci sarà anche del software celato da qualche parte della fanzine. In particolare c'è del software, c'è anche la fanzine sarà, tutto il software sarà proprio certificato da un programma di certificazione che spero i nostri ascoltatori ben conosceranno, e si tratta del chapter italiano della nota certificazione Only Works on My Computer. E noi siamo il chapter, cioè abbiamo la certificazione expert della versione italiana della certificazione, che funziona solo sul mio computer, e questo è un marchio, un bollino che in qualche modo appogniamo fieramente e orgogliose ai nostri prodotti di codice, che chiaramente sfiorano, anzi no, proprio si situano in una dimensione quasi artistica, oserei dire, cioè non è codice ma proprio è arte. Arte in quanto arte funziona solo sul mio computer, perché appunto deve essere unica e non ripetibile, almeno secondo alcune definizioni, poi non è più così, però tendenzialmente ecco, ci troverete tutte queste cose e forse molte altre, perché metti che ci venga in mente qualcosa questa settimana e vuoi non buttarcelo dentro la fanzine. No, probabilmente no, però tendenzialmente dovrebbe essere il numero zero, con l'ipotesi di essere anche forse il numero uno, e quindi se c'è uno zero c'è un uno, vuoi che non ci sia un due, cioè vorrebbe essere uno strumento che poi continuiamo a coltivare, e non è che facciamo solo questa uscita perché ci hanno chiuso in casa 2 mesi e poi più niente, no, anche perché magari ci richiudono di nuovo in casa, no, speriamo di no, però tendenzialmente lo facciamo anche come esercizio e come cosa utile, cioè le fanzine sono storicamente nel mondo dell'hacking, almeno all'inizio erano molto, molto importanti, attorno alle fanzine si costruivano i gruppi, Io sono cresciuto leggendo fanzine di Hacking, quindi ora che sono vecchio e rincoglionito, ho detto: non vuoi fare anche te una fanzine? Certo. Poi ho trovato appunto queste altre persone di Ftu che la volevano fare anche loro, e quindi tutti assieme abbiamo fatto la fanzine. Quindi vi ripeto di nuovo l'appuntamento, è per venerdì 19 giugno, ore 21, in quel del baretto estivo, giardinetto estivo del Next Emerson. Il bar sarà chiaramente per questioni sanitarie ridotto a alcune poche cose. Ci stiamo studiando dei sistemi anche per il cibo, ma non è che ci saranno forse dei panini preincartati, e apposta è alle 9 di domani, potete anche mangiare a casa anziché venire a mangiare lì, e lì vanno spiluccate, non lo so, vi daremo delle patatine incelofanate dentro un bicchiere o cose simili. Questo è quanto. L'appuntamento tra le 9 e le 10 inizio, quindi non arriva tutti a mezzanotte si chiude e si va a casa. Buona, e niente presentazione di Ciusi. A quello poi stiamo anche lavorando alcune diciamo numeri speciali, cioè caratterizzati da copertine variabili, quindi non sarà soltanto una fanza fotocopiata, sarà probabilmente una fanza online, poi anche ci sarà la versione fotocopiata, ma ogni copertina sarà finemente personalizzata e rifinita per poterla vendere a 40 euro a numero e farne un numero per collezionisti. No, non è vero, costa poco, giuro, pochissimo. E vi lascio un po' di musica nel mentre che mi preparo al prossimo argomento, se mi riesce. Spero di sì. Respond because that shit was mediocre. But then I said, I'ma do this shit for the culture. My hand to you like a real nigga supposed to. I know Pocket is grave turning over. Whoever tell you the way you moving is real was lying. They trying to get you killed. I'm trying to get you to chill. You making too many enemies. You lost and you give off the wrong energy. The gangster you pretend to be is offending me. It ain't added up because it's just not your pedigree. You a cornball with a little bit of celebrity. Without a dime, I'm richer than you could ever be. Nigga, you'll never see respect that I got. Ain't nothing Pac about you. Except you got shot, can't even step on the block without being a target. Humble yourself, you got bullets lodged in your noggin. Limping off the cart, you facing all type of charges. And still selling these fairy tales and mirages. He Neo from the Matrix, they shoot, he dodges. Troy stories is better than Mr. Rogers. Tired of your facades, you misleading the youth. I ain't beefing, I'm just speaking the truth. You just weak and the proof is your whole team gone. You say they suckers, you ever think it was you? You ever think it was too much? Moving like a poop putt, throwing shit up in niggas' faces when you do stuff. That's not real nigga shit, dog. You tell the whole world how you gave your man shit, dog. You down talk the same niggas that ride for you. Disrespect the mama, the same nigga that died for you. Your ego blind to you. Although you move so fake, I'm trying to talk to that real nigga inside of you. I'm providing you with wisdom, my nigga. Try to tell you, old man, you wouldn't listen, my nigga. So you getting beat, they shoot, kill bangers. You shoot. Hit nothing but you a gangster. I wasn't never outside of your show, fam. Any bill you on, I wouldn't even go, fam. Any spot I'm in, I'm VIP with a gold band. And I ain't never dick ride no man. But I was happy to see a brother blow, though. Then I found out you a fucking bozo. This for all the so-called real niggas that fuck with you. If you can don't sucker shit, then you a sucker too. You a sucker too. If you can don't sucker shit, what else you gonna be? Listen, man. I told them niggas, I'm leaving it alone. I try to leave it alone. Man made a diss song about me. I'm in my house chilling. I told them niggas, I don't want to beef with you. I just want you to try to figure it out. Try to move according to being real. You talk this real nigga shit. Do real nigga shit. Beloved. This is called discipline. This is how you discipline a nigga. Spank him up real quick. Give him a little bit of knowledge. Get on your square, king. You're moving like you got a death wish out here. I don't want to see you die. I don't want nobody to die. Don't come at me on this mic. I do this shit for real. Rieccoci, non troncato la musica forse in maniera un po' troppo netta, ma ho parlato un pochino, ma c'ho ancora un po' di argomenti in realtà, e quindi mi avvantaggio un attimo non facendovi ascoltare i pezzi nella loro interezza, ma di pochissimo, giuro avete perso tipo 4 secondi alla fine del pezzo, non di più. E volevo un po' alternare l'argomento perché avevo ancora poi un altro argomento di appuntamenti, questa volta in realtà un appuntamento semi-nazionale o forse nazionale a dire che grosso, l'ACM Meeting del 2020, appunto di quest'anno, però ne parliamo un pochino dopo. Invece volevo alternare con un argomento più tecnico. Ho trovato su un sito, è uscita questa notizia, è uscita intorno al 13 al 13, quindi era oggi è il 13, sì, oggi sì, è il 13, quindi è fresca proprio, è freschissima, e hanno trovato, dei ricercatori hanno pubblicato un paper, un quattro fogli in cui spiegavano le loro cose, alcuni esempietti, un attacco che hanno chiamato lampone. Mi ha colpito perché appunto ieri ho mangiato i lamponi, me li sono comprati, è periodo di frutti rossi e quindi me lo sono presi. E c'è questo attacco che si chiama lampone. Che cosa fa questo attacco che si chiama lampone? È una roba ganza. Il sottotitolo, hanno fatto anche delle robe proprio pupazzose per sponsorizzarlo, e il sottotitolo è The Light is Watching You, e lì l'idea è bella, perché c'è una lampadina con un occhio tipo quello di Osiride che ti spia, che però sembra anche l'obiettivo di una camera o appunto l'obiettivo di un telescopio. Perché cosa fa questo attacco? Bene, loro dicono che sono in grado, e l'hanno poi dimostrato, controllare attraverso un telescopio che vede molto bene una stanza che è illuminata da una lampadina, di quelle con il bulbo, insomma, una lampadina elettrica. Ebbene, loro sono in grado facendo alcune misurazioni su l'influenza che le onde sonore hanno su la luce dell'intermittente, cioè insomma la luce della lampadina, ecco, che non sono visibili a occhio nudo, ci vuole il sensore apposito che le rileva, quindi devi pigliare il telescopio, poi ci devi appiccicare i sensori, poi c'è sta l'algoritmo che elabora tutto e tira fuori del suono. Quindi, e cos'è questo suono? Sarà il suono delle persone che sono nella stanza. E quindi è un side channel attack, cioè nel senso io punto su un sistema di attacco per zacchete andare a leggere dei dati che non sono direttamente correlati con quella roba lì, cioè io non ascolto direttamente cosa si dicono le persone, ma faccio una misurazione che mi permette di dedurre che cosa si stanno dicendo. Questo attacco, per provarlo, hanno in bella sostanza fatto degli esperimenti che vi volevo descrivere, principalmente erano due, eccoli qua, per capire bene se si capiva bene la voce. Hanno preso la voce di Donald Trump, però tra, diciamo, recitata, non recitata, ma ricosata, cioè riconosciuta dalle Google Speech to Text API, cioè penso che abbiano messo un registratore nella stanza che riproduceva la voce del presidente, poi l'hanno fatta quello che lui diceva l'hanno fatto ripetere da un'altra parte, raccogliendo il dato appunto con questo telescopio, sensore, algoritmo che fa i conti, e poi zac. E l'altra cosa che hanno fatto, hanno provato a riprodurre dentro la stanza due canzoni una canzone dei Beatles, Let It Be, è una canzone dei Coldplay, Clocks, che io non conosco. Ora, se facessi le cose a tema, adesso dovrei mettere una di queste due canzoni, ma io non le faccio, e quindi metterò una canzone a caso, come faccio sempre. Però l'hanno potuta riprodurre abbastanza bene dall'altro lato, cioè dal lato di del telescopio, eccetera, eccetera, abbastanza per farle riconoscere a Shazam o a Soundhound, sì. E quindi era una qualità di discreta, cioè non è che cioè si capiva, ecco, si capiva, se no non lo riconoscevano. E questo mi è sembrato interessante, perché poi fanno un sacco di disegnetti in cui fanno proprio vedere, che ne so, l'ufficio e con le pareti tutte di vetro, no? E poi i due telescopi che puntano alla luce, e tutto questo posizionato dal palazzo di fronte, dal tettuino del palazzo di fronte. E a me mi era sembrata una cosa interessante. Poi fanno vedere anche l'ufficio e la cosa posizionata dentro, cioè in una aiuola, in una aiuola. E insomma, uno si può sbizzarrire in queste cose. E quindi niente, vi volevo raccontare questo attacco, che ha un nome molto tardo primaverile, cioè Lampone. Bello, il nome già è bellino. E vi lascio un po' di musica, il tempo solo di selezionare qualcosa di discreto. E eccolo qua, metto questo. E poi ancora un altro argomento, e poi, se riesco, appunto qualche divagazione per parlarvi un pochino dell'Acme Team 2020, che ancora non esiste, ma forse contro ogni pronostico e previsione esisterà. Così. Allora, musica, vediamo se mi riesce. È riuscito. Listen, yo, let's start it up, let's get it flowing, let's make a move, let's get it going. I know it's feeling like everything you want, don't it? And you've been waiting your whole life for one moment. Well, baby, here it is, you better step to it. I know you ready, right? Then, baby, let's do it. Move your neck to it, put your arms and legs next to it, then put whatever else is left to it. See, you're all in, now you about to rock them. Got your focus, man, now they got a problem. Who you talking to? Some right there, the man in the mirror, I see him. Quite clear, do your thing, Cap. Yeah, work it out, dog. Open up their minds, be about yours. Silence everyone who ever tried to doubt yours. Get your mind right, keep your sound raw. Heavy bass, man, make it bounce more. Make them feel it from the ceiling to the ground floor. How it sound, y'all? I know it's crazy, right? I know it's crazy tight. Don't ever take me light. It's Cap Love, y'all. And that's what's up, y'all. I beat game, I know exactly what you want, y'all. I make it jump, y'all. So put them up, y'all. Brown sugar, Brooklyn, it's about to jump. You got to give it to me. You need to give it to me. You better give it to me. Give it to me. Brown sugar, leave the ground shook up. Got the world sweating like fiends without cook up. You know you really wanna give it to me. You better give it to me. You got to give it to me. Give it brown sugar. Lick your lips to it. Work your hips to it. A steady rocking like this to it. One, two, three into the four. That brother Cavi Cav is here, so let him know. This for my hustlers. This for my scramblers. This for my sexy mommy. Sexy mommy. For everybody. Everybody at any party and watch them rock to it, bounce and pop to it. This here's hot music. Duke, I'm not losing. You need to stop fooling. I know the game very well, boy. I'm not stupid. Sharp and smart moving, applying a heart to it. Came here to get the ghetto blocks moving. And after rocking them, the porch and backyard's moving. Keep it cracking, cause I love the way that y'all do it. You got to give it to me. You need to give it to me. You better give it to me. Give it to me. Brown sugar, leave the ground shook up. Preserve the way how we make it sound good up like you got. You need to give it to me. You got to give it to me. Give it brown sugar. Lick your lips to it. Work your hips to it. Steady rocking like this. Damn, baby. Damn, baby. Damn, baby. Damn, baby. Damn, baby. Damn. Damn, baby. Rieccomi. Dicevamo l'Acme Team del 2020, chissà che fine ha fatto, chissà, chissà. Allora, doveva essere teoricamente a seconda settimana di luglio, se ben ricordo. Precisamente doveva essere dal 9 al 12 luglio. Ora, evidentemente non sarà. Non sarà essenzialmente perché siamo finiti all'interno appunto di questo coso della pandemia e se ne sta uscendo molto lentamente, però se ne sta uscendo pian pianino. E però il 9-12 luglio sembrava improbabile, quindi nei mesi scorsi tutto è rimasto in stand-by e si è iniziato a ragionare, ho detto ma quando e se? Un'ipotesi era quello di fare le cose solo online, come alcune convention o simili che normalmente si ritrovano anche fisicamente, hanno deciso di fare. E, che ne so, i privacy è stata che è un appuntamento che più o meno c'è ogni 2 volte l'anno e si configura appunto come una conferenza molto spesso partecipata da giuristi, avvocati, eccetera, sulle tematiche legate alla riservatezza nell'ambito digitale. Bene, allora hanno fatto la scelta, dal momento che avevano fissato poi la data, doveva essere il 15 maggio, di fare le cose online. Per Acme Meetings c'era questa possibilità, si è deciso più o meno, almeno per. C'è stata della discussione a riguardo, però l'ipotesi più probabile è che l'Acme Team venga spostato più avanti, in una data ancora da definire, ma che è stata proposta nella lista insomma, in cui si discute ogni anno dell'organizzazione di Acme Meeting e dovrebbe essere o verso la fine di agosto, l'ultima settimana di agosto, la prima subito di settembre, sempre tra giovedì, venerdì, sabato e domenica o venerdì, sabato e domenica, a seconda di come sarà possibile organizzarsi. E questa era la proposta. Questa cosa verrà discussa in un'assemblea in presenza che sarà nelle stesse date di Acme Meeting, non nel senso che dura 4 giorni come l'assemblea dei Zapatisti, perché noi abbiamo meno cose da discutere, sarà probabilmente solo il sabato, solo la domenica, in un orario da definire e da capire se ci sarà solo quello o anche altro. Cioè, di solito qualche volta nelle discussioni che avevano preceduto le discussioni di pre-ACME meeting, cioè di quell'assemblea che poi va a sancire, organizzare in qualche modo l'ACME meeting, occasionalmente negli ultimi anni erano anche corredate da delle specie di piccoli seminari, così per dare un senso alla giornata, no? Perché uno non venga solo per l'assemblea, dice, visto che siamo lì, almeno facciamo, che ne so, due parole su qualcosa. Ecco, non si sa bene se questa cosa avverrà quest'anno oppure no, però ci sarà appunto questa assemblea in presenza per parlare di Acme Meeting 2020 e di farlo eventualmente, se le persone pervenute avranno voglia di accollarselo in queste date. Tendenzialmente diciamo, quello che è stato proposto, oddio, è successo qualcosa attorno a me, tipo è caduto qualcosa che non saprei ben definire. Ora andrò a controllare che cos'è. Spero io non mi sono fatto male, però avete sentito un bel botto alle mie spalle. Cioè, sarà di cattivo auspicio per Acme Meeting? Ma chi lo sa. Vabbè, comunque, tendenzialmente diciamo, la discussione aveva preso appunto. Questo lo dico per spiegarvi un pochino cosa accade anche lì. Si aveva preso varie possibilità. C'era chi diceva no, saltiamo proprio perché quest'anno non sarà possibile. C'è chi ha detto boh, vediamo, aspettiamo l'estate, perché sostanzialmente se in qualche modo, come sembrava già da mesi fa, sarebbero ripartiti, che ne so, i campeggi o questo tipo di. Cioè, tendenzialmente si sarebbe tornati lentamente a una vita distanziata, ma con tutte le attività che c'erano anche prima, mi hanno detto, vabbè, però allora possiamo farlo anche noi. Tendenzialmente, cioè, basta dire alla gente, portatevi ognuno la propria tenda, organizzarsi un po' per la mescita del cibo, per i bagni, che sono un problema. Tendenzialmente il luogo che si era già reso disponibile a ospitare Hack Meeting e il Forte Prenestino a Roma, che è molto grande, quindi sarebbe possibile fare sostanzialmente le aule e seminari praticamente tutte sotto delle tensostrutture all'aperto. A quel punto, mantenendo un necessario distanziamento dalle persone, in una fase, diciamo, di epidemia calante, non ci sembrava di fare una cosa strana rispetto a quello che fa tutto il resto del mondo, e quindi questo ha reso anche rendeva possibile iniziare a pensare di fare Hack Meeting. Ora, tutte queste cose, quando state pensate, era più di un mese fa, quindi andavano in qualche modo corroborate da un andamento calante anche dell'epidemia, che sembra esserci, e quindi tendenzialmente forse Hack Meeting 2020 ci sarà. Lo sapremo precisamente soltanto dopo questa assemblea, appunto, di pre-hack, che sarà a luglio, l'11 o il 12 luglio, ancora da decidere. Questo era per fare un riassunto di quello che era la questione, che però magari era importante, perché alla fine questa trasmissione fa un po' cioè parla spesso di queste tematiche. Abbiamo parlato tutti gli anni in cui ho fatto la trasmissione, non è che sono tantissimi, però ho sempre parlato di Hack Meeting e di convention simili. Quella di Hack Meeting sono particolarmente legato, quindi mi sembrava giusto raccontarvi a che punto siamo e che non siamo scomparsi, ecco, cioè esiste ancora questa questa cosa nonostante la questione sanitaria che si era profilata. Quindi, insomma, tendenzialmente forse ci si prova, e vi farei ascoltare un altro brano mentre mi preparo con l'ultimo, credo, dei miei argomenti. Capisco che cosa mi è cascato alle spalle e l'entità dei danni, a cui avrò circa 3 minuti e 54 secondi per mettere a posto, perché tanto dura il brano che volevo ascoltare ora, completamente a caso, non so assolutamente di che parla, non conosco l'autore, ve lo faccio ascoltare sulla fiducia. Welcome to New Bronx City. My name is my song. My song. My song. My song. Yeah. R.I.P. the Prodigy. We gonna do this. We gotta do this for real. That's a fact. Ain't none of y'all niggas gotta rap me. At all. And that's on God. It's my song. There's a war going on outside. No man is safe from. The kids is killers, we gotta pray for them. Right. His man got shot, he gotta spray for him. It's real, I'm way too smart to try to play dumb. I pray that the day come, the killing subsides. I pray. And there's no drug dealers outside, because the dealers decide that they gonna build buildings, make some billions, and keep the children alive. Now, if you feeling that vibe, and you willing to ride, then let's build, dog. And stop killing from pride, these niggas living to die. What? I'm here to paint pictures with skills that build pyramids, still looking fly. Damn. I'm willing to die so my kids can live. Uh-huh. Fuck picking sides, I'ma build the bridge. That's right. My niggas hungry, I'ma fill the fridge. And fuck talk, I'ma show them how real it is. But it still appears I got the industry scared. Why? I make them listen when they hearing impaired. Now what you hearing is rare, this is the voice of God. Listen. I don't get involved with these boys' facades. They just talk and make noise for blogs. Yeah. I'm trying to avoid a charge. You niggas ain't ready to go to war with ours. You ain't good at war, your face full with all these scars. I'm getting all these calls like, what's wrong with dude? Outpost, son, get a word, dog, is food. I'm like, chill, gotta ignore these dudes. Cause see in the end, we all gonna lose. Some in the grave and some going to prison. Just cause I let my ego make a decision, I'm working for the people, I'm finally making them listen. I'm staying facts, they say that I'm dissing, I just say that I'm different. I'm cut from a cloth that's sewn with principle. These niggas done lost that. He snitching and y'all wanna endorse that. Death before dishonor, I gotta enforce that. Cause I was taught that you measure a man by when the weather get tough, you see whether he stand or whether he fold and he taking a stand. You know he ratting and you shaking his hand. I'm shaking my head cause I can't understand how y'all took fake shit and made it a brand. I took a hater and I made him a fan. I took a little boy and I made him a man. Cause I made him understand these streets is not laws. If you're not ready to die, these streets is not for you. Man in the precinct speaking all on you. It's all sovereignty, these streets done got spoiled you. Nah, I'm not preaching, dog, I'm trying to warn you. Cause if you sleep in these streets, then they gon' mourn what you. Else? The feds all on you, the lights gon' blind what you. Else? You got pretty thought chicks trying to line you. Facts. I know you heard it before, but what I remind you. Boy? The most dangerous ones right beside you. Ooh. You know the Judas, watch how they deny you. Run and tell your plug, he the man, why he's supplying you? Streets is hard, these new niggas what? Don't even believe in God. They believe in God, we trust, they scam and fraud. That they great. Take account numbers off their grandmother's cards. Bunch of lost niggas, swear they boss niggas. Then they get up north and straight up soft niggas. Mad quiet, scared to cough niggas. That's right. Then they join gangs just to live off niggas. I swear to God. Stop me where I'm lying. It's a real nigga in the cell right now crying. Why? Cause he hearing this and he's shaking his soul. Uh-huh. He made one mistake and he ain't coming home. Uh-huh. There's a kid in the hood right now aiming his chrome. Uh-huh. Another kid that's 20 that ain't gonna be grown. Damn. A little girl right now that's thinking she grown. Damn. While some R. Kelly nigga making her moan. I know that shit sound all the way foul. But it's real though. The whole culture is sick. How we gonna heal though? I think it's time to destroy and rebuild. So decide what you ready to die or you gonna live for. Eccomi. Allora, ho capito cosa mi era cascato alle spalle. Mi è cascato alle spalle un quadro che era appeso, una stampa che era appesa qui nella Wombat regia. Una stampa tutta bianca e nera con un faccione cattivissimo che dice una roba tipo let's start Calvinization of Europe right now, long live freedom. Cioè una roba... E, insomma era ironica ma anche terrifica e mi è cascata alle spalle, non mi ha colpito comunque e penso che andrà riappesa meglio perché questa cosa non capiti a altre persone che usano la Wombat regia. È brutto se ti cascano i quadri addosso, poi anche questi un po' terrifici che ti insomma in un clima inquietante, sì. E l'ultimo argomento, ve l'ho detto, facciamo un po' argomento di senso e argomento tecnico per ping pong per tutta la trasmissione. Avevo notato, mi era passato tra le notizie, intanto mi scorrono davanti in settimana, di quelle del mondo della noiosissima cyber security, che era uscito un coso che si chiama SMBleed, che doveva essere, cioè che più o meno riprende o almeno che ha trovato un altro problema in una roba che aveva già un problema di qualche mese fa e aveva dato vita a un attacco che si chiamava SMB Ghost e era interessante perché tutte queste cose riguardano alcune versioni di Windows 10 e come realizzano questo protocollo SMB, che è quello che sostanzialmente sta alla base dello scambio di file e queste cose qui, il network browsing, no? Cioè il fatto che tu clicchi e dici sfoglia la rete Windows, brum, e trovi tutti gli altri computer, la condivisione delle stampanti per esempio, e in generale la comunicazione tra processi sopra la rete, quindi non una cavolatina, cioè uno Windows lo usa anche per questo e mica solo perché c'ha le icone colorate. Ecco, e vabbè, insomma, ci sono un po' di problemi che se te la giochi, sei fortunello, riesci a eseguire codice sulla macchina combinandolo, però quello che insomma sembra fare questo attacco soprattutto, almeno dal video che hanno, è che ti permette di leggere memoria del kernel, cioè che però il kernel è un po' importante, quindi se io posso leggere pezzi di memoria del kernel, siccome lì ci girano tutte cose, e potrei anche trovare delle cose che non devo leggere, e comunque vuol dire che in qualche modo ho letto a un livello privilegiato, del quale io che sono fuori dalla macchina, nella rete, probabilmente non dovrei poter accedere. Pian pianino, insomma, la maestra prima o poi paccerà, ma chi se ne frega di che fa. Però era bello, era divertente un po' quello che dicevano per mitigare il problema, a parte appunto aggiornare, forse ha pacciato, vabbè, comunque a parte aggiornare appena possibile, voglio dire, se proprio non puoi, blocca completamente la porta 445, che va bene, nel senso che effettivamente funziona e uno si perde un po' di funzionalità, però poi sta tranquillo. E mi fanno sempre un po' ridere a me queste solo soluzioni. Perché danno appunto per scontato di levare intere funzionalità di un sistema che uno di solito il computer lo usa, lo compra per usarlo, no? Cioè, tendenzialmente l'idea era quella, quindi se mi devo levare tutte le funzionalità per sto sicuro, alla fine uno è evidente che si terrà le funzionalità e dice vabbè, sono un po' meno sicuro, però almeno qualcosa ci faccio. E quindi questi sono i consigli però degli esperti di security. E quindi vi lascio a una canzone. A questo punto credo anche forse una boh, l'ultima, è così, l'ultima canzoncina. E poi vi do appuntamento a questo punto, non al prossimo sabato, perché alla fine vi ho appena detto che ci sarà un appuntamento in quel del Next Emerson venerdì prossimo per la presentazione della Fanza di IF2, e quindi cioè, anche sabato, però per chi può e vuole, addirittura il venerdì alle ore 21. E potete godere il frutto della fatica dell'ECLAB in quel della quarantena. Sto ancora ravanando la tiro lunga per cercare un pezzo da farvi ascoltare, ma sì, va, l'ho trovato. Vi faccio ascoltare questo che chiude anche la trasmissione. Saluto tutte e tutti e ci sentiamo al prossimo sabato o ci vediamo venerdì per chi vorrà, potrà. How many more funerals do we gotta go to? How many more scenes of the crime do we gotta watch them chalk out black figures on the concrete before we realize that the only way for us to ever get out of this predicament is to struggle to survive? Situation, cause once you look at it, you know, really do. They don't give a fuck about us. Simple fact of the matter is they don't give a fuck about without you, or them 5 miles you forced to be, not including yourself. All you want is wealth, they perceive it as greed. So as you load it up, that Mac can continue to bust. Your mama's on paper, thinking they don't give a fuck about us. I'm seeing it clearer, hating the picture in the mirror. They claim we're inferior, so why the fuck these devils fear you? I'm watching my nation die, then inside the cause, expect the bloodbath. The aftermath is yours. I told you last album, we need help cause we dying. Give us a chance, help us advance cause we trying. Ignore my whole plea, watching us in disgust. And then they beg with my guns, but they don't give a fuck about us. Now if I choose to ride, fuck it till the day I die. Nobody gives a fuck about us. But when I start to rise, a hero in their children's eyes, now they give a fuck about us. If I choose to ride, fuck it till the day I die. Nobody gives a fuck about us. But when I start to rise, a hero in their children's eyes, now they give a fuck about us. All my homies got love for me. Down to catch a slug for me. Guaranteed to bleed deeply. Now that's love. Else to give a fuck if I'm toe down from the flow down 6 feet deep in the cut. What the fuck done went wrong? How long will I be mourn when I'm gone? Same song, ain't give a fuck all along. And who am I to blame them? Just doing die through the rain. And since they don't give a fuck, I don't feel what I'm saying. Now thug niggas die by multiplying doubles, wrapped in plastic or closed casket for our troubles. Present times be busted like bubbles. With the police, this nation be sent here to run you. Not looking with this crooked world, it's come to. I grew up on the other side of perfect. A life of hurting, master hustle, but soon dying certain. So I spend your time pouring, working. I see no reason, so I sleep all the season to season. Why you stop thinking that they tell give me that my world is in peace, my nigga, you're lying. Cause half of my niggas long gone, buried in the dirt just for trying. Sometimes I think my block is dying, and that is awful. To wake up to another day, shit ain't changed, that's awful. I wake up sweating, dreaming, coughing, seeing me upside down, backwards, head twisted while I'm laying in the coffin. The shit comes around so often, so tell me something before I take it out on the world and get the dumping. Nigga, I'll be so for vain, going through the struggle. I'm doing the same thing you did at my age, and that's hustling on the edge of straight busting. But since you don't give a fuck, I'm just frontin'. I'ma drink my Hennessy like it ain't nothing. Now if I choose to ride, fuck it till the